Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta il mondo dal punto di vista degli animali, di tutti gli animali, umani e no. Siamo arrivati alla puntata numero 494 e oggi parleremo di insensate cacce all'orso, di attrici impegnate, di cantanti maldestri, del cibo che cambia, il tutto accompagnato da molta buona musica. Let's go in the bedroom. What's in there? A window. I can't wait, babe. I can wrap my legs around you, girl. Cause sugar, you know, you're just the kind of lover that I've been looking for. Cominciamo con la notizia principale di questi giorni. La caccia all'orso denominato M49, scatenata dal presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugacci. L'animale è stato preso di mira perché considerato aggressivo e dopo una lunga disputa fra la provincia, decisa a infliggere pene esemplari all'orso in nome dell'ossessione per la sicurezza, e il governo nazionale, col ministro Costa che ha tentato di spingere l'ente locale a ragionare e agire con calma. Alla fine M49 è stato catturato, salvo fuggire subito dopo in modo un po' misterioso. Non sappiamo ancora come andrà a finire questa storia e quando questa puntata andrà in onda le cose potrebbero già essere cambiate. Ma abbiamo chiesto comunque al nostro corrispondente dall'area alpina del Nord-Est, Zenone Sovilla, di raccontare che cosa sta succedendo e perché. Me, the ocean spray all wild and free, its waves roll on relentlessly. They call us the open road. La vicenda dell'orso M49 è emblematica. Riassume l'aggravarsi, con l'avvento del governo leghista nel 2018, di anni di criticità nella gestione trentina del progetto di ripopolamento. Le variabili in campo sono molte, ma si può dire che i limiti principali di questo impianto sono le interferenze della politica sulle direttive scientifiche e sull'attività tecnica, con la conseguente decisione politica di evitare il più possibile di rivolgersi a competenze specialistiche esterne al territorio, insomma, di fare un po' tutto in casa. Certo, interfacciandosi con il ministero col quale spesso si è arrivati ai ferri corti, il che ha causato, fra l'altro, una serie di fallimenti già in passato, come i decessi di orsi durante tentativi di sedazione. Fino adesso al clamoroso caso di questo giovane esemplare maschio di 3 anni, M49, catturato solo perché accusato di eccessive razzie di animali di allevamento. Una cattura contestata da molti studiosi, dagli ecologisti, nonché almeno inizialmente anche dal ministero che sovrintende alla gestione di questo progetto europeo che si chiama Life Ursus e è affidato alla provincia autonoma di Trento. Una cattura, quella di M49, contestata da chi riteneva che fossero praticabili invece ancora atti dissuasivi per farlo allontanare dai pascoli. Pascoli sui quali peraltro andrebbe aperto un dibattito serio circa la loro protezione e anche la loro ubicazione. Spesso infatti si spingono davvero in alta quota in territori tipicamente appunto da orsi. Una cattura, quella di M49, che è avvenuta senza procedere alla sedazione, con l'orso intrappolato in un tubo, al buio, stressato, trasportato su un carrello al traino di una jeep, nel traffico per circa 70 km. Una cattura poi trasformatasi in beffa, come noto, con la fuga dell'orso, che era stato intrappolato nelle foreste delle valli giudicarie, sud del Trentino, verso il confine con Brescia, poi portato nel recinto provinciale del Casteller, che si trova a Trento, in città, e da qui fuggito quasi subito con una acrobatica azione per scavalcare le recinzioni. Adesso, secondo la versione ufficiale, M49 è ancora in fuga in un'area distante un'ottantina di chilometri da quella della cattura, cioè nelle foreste della Valsugana. Si muove tra la Vigolana, a quanto pare, e l'inizio dell'altopiano di Asiago, un'area peraltro nella quale potrebbe anche trovarsi bene per un po'. Poi probabilmente cercherà di tornare da dove è stato catturato, sempre ammesso che sia così. Sulle modalità della cattura è eloquente il commento dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari, che denuncia la decisione della provincia di Trento di non seguire il protocollo medico di sedazione previsto per la cattura degli orsi. Tra l'altro, scrivono ancora i veterinari, fonti locali fanno sapere che M49 è stato chiuso in questo recinto in un'area dove non c'erano orsi prima della sua fuga, quindi si sentiva sicuramente ancora più spaesato. I veterinari specializzati nella cattura e nel trasferimento protetto di plantigradi seguono sempre un protocollo collaudato in decine di azioni di recupero di orsi nei paesi dell'Est Europa. Un protocollo in grado di garantire il massimo controllo degli animali durante tutte le fasi e contemporaneamente di garantire il loro benessere pre e post recupero, scrive ancora l'Associazione di Veterinari Italiani, che poi affonda il colpo. In Italia, scrive, la gestione della fauna selvatica continua a essere improntata a un barbaro dispregio delle competenze. Un dispregio che va sotto la propagandistica definizione di azioni concrete. Qualunque spiegazione si vorrà dare sulle dinamiche dell'accaduto, la valutazione dei medici veterinari, esperti in plantigradi, è di un clamoroso insuccesso tecnico. Quindi la critica pesante alla provincia autonoma di Trento, che in questo caso ha peggiorato, diciamo, questa attitudine storica a voler fare un po' tutto da sé e ha fatto il pasticcio per assecondare rapidamente le richieste degli allevatori che avevano fatto una manifestazione a Trento pochi giorni prima di questa cattura, per chiedere appunto alla politica leghista di fare le azioni, le famose azioni contro gli orsi e contro i lupi, tanto in vice a questa classe politica. Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh. Unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. Oh, but in the meantime I got it hard, second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay. Una brutta notizia arriva da un'altra zona popolata da animali selvatici protetti. Nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini è morta nei giorni scorsi Magica, una lupa molto conosciuta dagli addetti al parco. È stata investita da un'automobile nell'area di Visso, in provincia di Macerata. Magica era stata catturata alla fine del 2018 nell'ambito del progetto WolfNet e le era stato messo un radiocollare per poterne seguire gli spostamenti e così definire meglio i piani di protezione del lupo. Si tratta di una grave perdita, ha detto il direttore del parco Carlo Bifulco. Magica era un esemplare di una specie di altissimo valore simbolico ed ecologico. E sul fatto Bifulco si è espresso così. In effetti non sono gli animali che attraversano le strade, ma siamo noi che attraversiamo ed interrompiamo i loro territori, creando, con velocità troppo elevate, occasioni di incidenti pericolosi, anche per gli automobilisti. Questi incidenti, chiamiamoli così, sono in effetti molto frequenti e dicono molto sull'arroganza con la quale normalmente ci avviciniamo al delicato universo della vita selvatica. A proposito di interventi maldestri sugli ambienti naturali, è in corso da tempo e si è intensificata nell'ultimo periodo la polemica attorno ai concerti sulla spiaggia del cantante Jovanotti. È un tour, il suo, che si propone come ecologista, con tanto di partnership con il WWF, ma che ha cozzato contro un'evidente contraddizione. È possibile, in nome dell'ecologia, portare sui litorali decine di migliaia di persone? Con tutto ciò che concerti simili comportano in termini di spostamento di materiali, allestimento di palchi, passaggi di automezzi pesanti, inquinamento acustico, impatto della presenza umana? No, non è possibile. Un concerto sulla spiaggia con decine di migliaia di persone non può essere un concerto ecologista. E Jovanotti farebbe bene a riflettere su questo punto, prima di imbarcarsi in imprese di pretesi contenuti etico-politici. Fra i numerosi problemi sollevati c'è l'impatto con l'habitat del Fratino, un piccolo trampoliere che vive vicino alle spiagge e si nutre sul bagnasciuga. È un uccello che rischia l'estinzione a causa della cementificazione e dell'antropizzazione dei nostri litorali. La LIPU e altre associazioni ne hanno preso le difese, entrando in contrasto con il team di Jovanotti. Un concerto previsto a Torre Flavia alla Dispoli nel Lazio è stato annullato. In altri casi sono state spostate le date per limitare i danni. In questi giorni è intervenuto il prefetto di Vasto, in vista del concerto programmato il 17 agosto, per dire che tutti i pareri tecnici portano a ritenere non idonea la spiaggia individuata, sia per problemi di traffico automobilistico, sia perché la spiaggia, descritta come priva di ostacoli e di vegetazione, è in realtà vicina a un fosso. E gli stessi interventi preliminari di livellamento del terreno, secondo la Onlus Stazione Ornitologica Abruzzese, è stato fatto durante la fase di riproduzione del Fratino, mettendo quindi in pericolo il libero corso della vita di questo sfortunato animale. Speriamo che le polemiche di questi mesi siano di lezione per Jovanotti e che in futuro il cantante riporti i suoi concerti in luoghi più consoni, ad esempio gli stadi, e lanci da lì, se crede, i suoi proclami ecologisti. Race relations, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutations, miscreation, confirmation to the evils of the world. Le cronache degli ultimi giorni hanno portato alla ribalta un'altra artista, ben più nota di Jovanotti, per il suo impegno animalista. è Kim Basinger, l'attrice famosa per la sua interpretazione in 9 settimane e mezzo e per l'Oscar ricevuto per L.A. Confidential. Basinger ha tenuto banco durante una manifestazione in Corea del Sud. Vestita di nero, con una finta carcassa di cane in braccio, insieme con centinaia di altri attivisti, l'attrice ha manifestato davanti al Parlamento di Seul per chiedere l'approvazione di una legge che proibirebbe il consumo di carne, di cani e anche gatti nel paese. Poco lontano c'era la contromanifestazione di chi vorrebbe invece mantenere questa tradizione e la sua liceità. In questo caso, niente finte carcasse, ma veri pezzi di carne di cane cotti e mangiati. La questione dei consumi di carne di cane in Corea è molto delicata. I consumi in realtà sono crollati nelle grandi città ormai cosmopolite e in qualche modo occidentalizzate, ma sono diffusi nelle città minori e nelle campagne. Il presidente progressista attuale, Moon Jae-in, appoggia la proposta di legge e lui stesso non solo non consuma carne di cane, come informa il Corriere della Sera in un articolo dedicato alla questione, ma tiene in casa un cane da compagnia, come avviene normalmente in Occidente. Sul piano politico però le cose sono molto complicate e forse non c'è una maggioranza in favore del divieto di questa pratica. Il fatto che si mangi carne di cane e anche di gatto in realtà dalle nostre parti suscita ormai orrore, ma viene in mente l'inizio di un libro di Melanie Joy, dove l'autrice racconta una cena con amici durante la quale informa i commensali, a piatto ormai consumato, di avere servito la carne di un gustoso golden retriever. L'orrore degli amici, racconta la Joy, fu grande, ma naturalmente era tutto finto. Melanie aveva solo colto l'occasione di ricordare ai suoi amici che non c'è nulla di strano, in fondo, nel mangiare cani e gatti, animali del tutto simili ai conigli, alle pecore, alle mucche, ai maiali, che dalle nostre parti sono uccisi, fatti a pezzi e cucinati con grande noncuranza, come si fa con cani e gatti nella Corea del Sud. Detto ciò, speriamo ovviamente che la campagna di Kim Basinger ottenga i risultati a cui mira, e però intanto in Occidente domandiamoci se i barbari sono sempre e solo gli altri, o se un po' barbari, forse molto barbari, siamo anche noi. E visto che in questa puntata si parla della star di 9 settimane e mezzo, abbiamo sentito qualcosa che la riguarda e ora in particolare nello spazio musicale parliamo di un album misterioso che doveva uscire nel 1989, che si chiamava Hollywood Affair, che era prodotto per Kim Basinger da Prince. Un album che in realtà poi non è mai uscito, non si sa per quale motivo, però in rete si trovano delle tracce, ma forse saranno cantate da lei, forse no, non si sa, perché il fatto che lei non cantasse e che prestava solamente la foto di copertina era uno dei motivi per cui non fosse uscito questo album. Noi sentiamo la traccia Come On. Honey, nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore di un apprezzato libro di cucine regionali italiane rigorosamente vegan, ogni settimana si impegna a proporre una ricetta che prende ispirazione dalle notizie che presentiamo nella puntata. Stavolta gli abbiamo chiesto di trovare una connessione fra il piatto della settimana e proprio lei, Kim Basinger. Sentiamo che cosa si è inventato. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Summer kisses, winter tears, that was what he gave to me. Never thought I'd travel all along the trail of memory. Happy hours, lonely years, but I guess I can't complain, for I still recall the sun. Per quelli della mia generazione, se nomini Kim Basinger, è come dire 9 settimane e mezzo. Nemmeno l'Oscar vinto per LA Confidential ha potuto sostituire il ricordo stampato nella nostra memoria di Elizabeth McGrew. Tantomeno la scena cult, dove ad occhi chiusi, davanti al frigorifero aperto, assaggia tutto ciò che un non ancora sfigurato Mickey Rourke le proponeva. Fra le tante cose spiccavano fragole e champagne. E proprio questi due ingredienti saranno i protagonisti della ricetta dedicata alla bellissima Kim. Risotto alle fragole e champagne? Su via, non datemi così per scontato. Il piatto che vi propongo sono delle tagliatelle con champagne condite da una crema alle fragole delicatamente piccante. Gli ingredienti per 4 persone per le tagliatelle con champagne alla crema di fragole e paprika dolce sono: per la pasta 200 g di semola di grano duro, 80 g di farina forte, 40 g di farina di ceci, 160 ml di champagne, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, sale e un pizzico di curcuma in polvere. Per la crema 2 scalogni, 250 g di fragole, mezzo bicchiere di champagne, un cucchiaino di paprika dolce in polvere, sale e pepe, olio extravergine di oliva, un rametto di aneto, un cucchiaino di farina di riso e mezzo bicchiere di latte di avena. Setacciate le farine e disponetele a fontana sulla spianatoia. Versate al centro lo champagne e l'olio extravergine. Aggiungete un pizzico di sale e uno di curcuma in polvere. Impastate per una decina di minuti fino ad ottenere un impasto liscio e compatto. Avvolgetelo nella pellicola e fate riposare per 30 minuti. Nel frattempo sbucciate lo scalogno, tritatelo finemente e fatelo scottare in padella con poca acqua. Quando questa sarà evaporata, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e fate rosolare per qualche minuto. A questo punto aggiungete le fragole che avrete precedentemente lavato, privato della parte verde, e tagliato a pezzetti molto piccoli. Aggiungete la paprika e aggiustate di sale e pepe. Bagnate con lo champagne e lasciate evaporare. Quando le fragole inizieranno a sciogliersi in una crema, aggiungete la farina di riso e il latte di avena. Lasciate addensare per qualche minuto, quindi togliete dal fuoco. Tirate la sfoglia a 5 mm circa, quindi ottenete delle tagliatelle. Fatele cuocere in abbondante acqua salata, scolate al dente e conservando un po' di acqua di cottura. Saltate la pasta nella crema di fragole e, se necessario, aggiungete un po' di acqua. Servite la pasta guarnendo con una fragola a fette e qualche rametto di aneto. And I looked up and I spoke to God, and God said, look at you, don't look at me. You're only calling me when you need me, and when you don't, you hardly think of me at all. I don't enter your head for weeks at a time, but the times I do are in your despair, that you created and not I. And still you look up at me in such pleading terms. That's how I can't deny you. But don't look at me, look at you. Don't look at me, look at you. And every night I pray. A proposito di cucina vegana, una notizia interessante arriva dagli Stati Uniti, dove il premio assegnato annualmente al miglior piatto di pasta di New York è andato stavolta a un piatto molto speciale, completamente vegano, bucatini con crema anacardo kombu, pesto mediterraneo, limone di Sorrento e pan grattato. È il piatto proposto dallo chef Riccardo Orfino di Osteria 57. Si tratta di una new entry sulla scena dei ristoranti newyorkesi e si avvale di un team formato da tre professionisti italiani, oltre a Orfino anche Emanuele Nigro e Alessio Morosin. Insomma, la buona cucina vegan italiana si sta facendo strada. Con una notizia di alta tecnologia e ricerca applicata all'alimentazione. Parliamo di un'azienda statunitense, Perfect Day, che ha cominciato a produrre gelati usando una materia prima molto particolare. Si tratta di normale, apparentemente normale, latte vaccino, ottenuto però senza il coinvolgimento delle mucche e perciò proposto come latte vegano. Sembra che quelli di Perfect Day abbiano ottenuto da un laboratorio un ceppo di lievito e poi abbiano stampato in 3D la sequenza del DNA di una mucca, che poi è stato inserito nel ceppo del lievito. In questo modo il lievito fermenta e si producono, come per magia, siero e caseina, ottenendo un latte che possiamo definire cruelty free e sicuramente a basso impatto ambientale per consumi di acqua ed energia. È difficile prevedere se questo gelato avrà fortuna. Per quanto ci riguarda, al momento, continuiamo a preferire, nel caso, bevande su base vegetale, convinti come siamo che le abitudini, e quindi anche i sapori, e in questo caso, ad esempio, il consumo di latte vaccino, si possano, e in certi casi si debbano, cambiare. Saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla e il sottoscritto Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.